vaffanculo, faccio anche lacrimare. Cosa c'è l'orzaio? Non ti cazzo di chiama, si decine di luce, non chiama l'orzaio. E può essere anche un calà, dipende. Cosa c'è, una palla di grasso? Una pallina, piccola. Quello è un calà. Quello si chiama calà. Devi andare dal dottore perché ti dà qualche cosa per farlo sparire. Se non ti sparisce così te lo devo mostrare come l'hanno fatto con me. Ma non mi viene, come si dice? Mi viene e poi mi sparisce. Poi ecco come mi fa un po' male. Mi fa fastidio. Si parla più degli occhi, cioè l'occhio destro. Tipo come c'è di qualcosa dentro l'occhio, no? Non ci guarda un cazzo di... Come si chiama già? Hai detto, ripeti? Calapio. Cercalo in Calapio. Nel computer te lo dà. Calapio. Calapio. Calapio. E via. Mi la portate chi? Cos'è chi sa? La portata, dove la portata? Una cosa, lui vorrebbe mettere la portata. Ah, mi viene un po' male però. Ma siccome è così piccolo che non ce la fa, ci fa solo il solitichino a noi. Capanoccia la gara. Capretto. Senti. Ma che gusto ci prendi? Che gusto ci prendi? Invece che metterla lì da mano, mettila da un'altra parte. Vabbè, da un poco. Falchitus. Che parola, Gelo? Sono io, pezzo. Io la devo buttare. Magari siamo in avvisito. Ma io si becca. Si cerca. È un tipo movimentato, la verità si dice. Beh, è esercitato, Una molla, pare che va già la gente un vivo dentro. Davvero? Basta che la faccia nei lavori, è esercitato. Non puoi cacciare la roba, le frasi, la macciata, ma per forza, anche io voglio essere in prescia a travaglio. Beh. Io invece me la prendo un po' con calma, quando faccio i lavori di precisione specialmente. Come calma, la faccio piano e bene. No, non mi interessa perdere più di tempo, però la faccio tranquillo. Beh, così vuole fatto, allora già. Ci mancherebbe altro, tanto da finire con la presa a voi. Pensi sempre i pezzi cammino si perdono, mi capisco. Non mi guarda dei pezzi, tipo quando smonti la macchina poi prendere il baracchino e lo fai bene, dai, che fai passare il filo dentro e tutto quanto. Quando smonti i pezzi devi fare anche i pezzi, ci vai giù più in prezzo, invece piano piano. Lui meno male che c'è la attrezzatura e cosa, c'è quelle calamite che si allungano, c'è una bocca da tre. No. Chi è? Ciao, Franchi. Ciao, chi è? Giorgetto sono, ciao. Chi sei lì? Giorgetto, sono Giorgetto. Che chi era? Chi era questa cosa? Tu? Franchetto. Ah, tu sì. E allora? Perché no? Adesso di Maria diciamo, ma che no? Ma la volta dei camionisti ci siamo fissati le risate, questo no? Eravamo io, Luca, e poi avevo Natalina. Ah, ma la volta di me? Luca faceva Massimo di Cagliari. Ah, è vivo, maledetto. Io ero di cose, io di Stano. Ero di Stano, non ricordo come mi chiamavo. Neanche io me lo ricordo, però dopo ti ho riconosciuto, Ah, anche dopo se proprio si arrivi non mi ha giocato più, l'ho visto cominciare dal microfono. Sì, ma ti ho riconosciuto, Sì, no, già mi ho riconosciuto domani. Cosa? Farla per cagliare il sacco. Ah, è riconoscibile la voce tua già, dai. Ma parte la realtà, non mi riconoscivi, mi rispondevi, dimmi, dimmi, dove sei? A Muro, se sono arrivato a Muro, ma mi senti anche lì? Volpini, Volpini, Volpini. Questi sono scritti innocenti, non sono cose offensive, cose, almeno ti diverti tutti qua, non è che sono scritti innocenti questi qua, tutto dipende da uno che ha l'orecchio, capito? Se uno ha l'orecchio dice vai, vai, non la buffonare, già, che ti ha riconosciuto, ma se uno non ha l'orecchio, ancora, non può approfittare. Ah, beh, quello è poco ma sicuro, come io quando sto facendo il continentale tu non mi hai riconosciuto. Pegando. Un giorno io ho fatto con il tenentale e tu non mi stavi riconoscendo. Mi ha già riconosciuto anche se siamo da domattina. Siamo tutti in macchina quando l'hai fatto. Sabato può dire che ti riesci un gioco cascata. Ah, così è. Ma c'è più sentito roba con quadrata. Quella sera che se ne è scappato non è più rientrato. Vedi, l'ha preso. Ah? Va bene, l'ha preso. No, ti ruota, poi vado da io, sto andando, ciao, se ne è andato. La saluta a tutti, se ne è andato, ma poi non è più rientrata. Col caos. Cava. Vabbè, allora ci stiamo andando buon, così entra. E non entra, esce a vedere, passate. Via. Sì. Ma sei entrato? Non è entrato, andiamo a chiamare a portare, andiamo a portare a portare. Sì, mi sono allontanato, mi sono facendo qualcosa in cucina. Ah, si è appagato, così si è bianco, come si è appagato.